Tecnici ragazzi e ragazze in ascolto, ben ritrovati a tutti e benvenuti sulla frequenza di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani da Don Leonardo Maria Pompei. Ave Maria. La volta scorsa, se ricordate, abbiamo cominciato ad introdurre il settimo comandamento, non rubare, scherzando anche un po' sul fatto che nel nostro contesto storico-culturale viene data un'importanza grande, forse esorbitante, a questo comunque pur importante comandamento. E oggi in questa puntata, se il Signore e la Madonna ci aiutano, cominceremo a vedere come in concreto, dopo alcune premesse, diciamo così, di alcuni principi fatti nella puntata precedente, alcuni principi cardine della morale cattolica, vi ricordo alcune distinzioni molto importanti, cioè questo come su altri argomenti, distinguere con molta attenzione la legge civile dalla legge morale. Ecco, certamente non è possibile negli ambiti ristretti di una trasmissione radiofonica con un tempo limitato, fare un corso di morale, perché questi argomenti meriterebbero una ben più dettagliata e approfondita esposizione. Tuttavia, ci accontentiamo di ricordare bene il principio secondo il quale su questa, come su altre materie, la legge civile a volte ha degli spettri di azione più ampi della legge morale, viceversa, a volte la legge morale ha dei campi di azione più ampi rispetto alla legge civile. Credo, se non ricordo male, ma forse è bene riprenderlo, proprio l'ultimissima premessa, di aver fatto un esempio quando parlavamo del quinto comandamento, non uccidere, no? Per esempio, e qui vi parlo anche come ex studente e poi anche praticante, insomma, di materie legali, no? Prendiamo per esempio il comandamento dell'omicidio. C'è il caso classico che viene fatto anche durante le lezioni per far capire proprio la differenza tra legge morale e legge civile, che è questo. Se io sono un cacciatore e va a fare una battuta di caccia, ma in un momento consentito, ho il fucile, vedo da lontano un coniglietto a cui devo sparare. A un certo punto sparo a questo coniglietto senza accorgermi di nulla, ma sciaguratamente, proprio in quella frazione di secondo, tra la pressione del grilletto e il tempo infinitesimale che ci mette il proiettile a raggiungerlo, da un cespuglio vicino al coniglietto esce una persona e io in nessun modo avevo visto e neanche potevo lontanamente immaginare che fosse lì e io lo uccido. Da un punto di vista della legge civile sarò quasi certamente condannato per omicidio colposo, quasi certamente. E comunque c'è un morto, dal momento che la legge penale punisce non soltanto il delitto doloso ma anche il delitto colposo, sicuramente si ravviseranno questi estremi e quindi da 1 a 5 anni di reclusione, si spera meno di 2 con la condizionale, non me li toglie nessuno. E comunque attraverso questa mia azione è morta una persona, io posso anche sentire un rimorso immenso. Ma io vi dico che davanti a Dio, se veramente io non avevo nessun motivo di pensare o di dubitare che lì ci fosse una persona e niente me l'aveva lasciato presupporre, quindi quando io ho sparato il colpo in perfetta buona fede, pensavo che lì ci fosse solo il coniglio e nient'altro che il coniglio, io vi posso dire che davanti a Dio sono completamente innocente, posso farmi la comunione la sera stessa, senza neanche confessarmi. Vi faccio un esempio completamente differente, anzi, uguale a questo. Sempre la stessa condizione di partenza, sempre lo stesso fucile in mano, dietro quel cespuglio io intravedo dei movimenti strani e mi viene il sospetto, dico, ma non è che là c'è un altro cacciatore come me? Ah no, e poi non importa niente, io al coniglio gli sparo, speriamo che il cacciatore non si muovi, non si muova, scusate. Sparo al coniglio, il cacciatore non si muove e uccido il coniglio. Forse il cacciatore non c'è, ma che ci sia o non ci sia è del tutto irrilevante. Ovviamente non è successo assolutamente nulla, ma davanti a Dio dovrò rispondere di omicidio. perché nella mia volontà io ho sparato, nonostante che fossi cosciente del pericolo che avrei potuto uccidere un uomo, e questo davanti a Dio è equivalente ad averlo ucciso. Non so se già oggi, negli esempi che faremo oggi, farò degli esempi anche abbastanza attuali e forti, quindi faccio tutte queste premesse perché dopo li spiegherò, perché voglio che siano comprese bene alcune cose. Ecco. Chiudo parentesi, chiaramente questo esempio prescinde dal fatto che la caccia sia lecita o non sia lecita, che poi ci sono gli animalisti che si arrabbiano, è un esempio di scuola, quindi non intendo prendere nessuna posizione sulla caccia che si possa fare o non si possa fare, adesso non ci interessa questo argomento e non lo affrontiamo. Comunque, la volta scorsa abbiamo visto i principi generali del rapporto con i soldi e con i beni. La legittima proprietà dei beni materiali è tutelata, deve essere contemporanea col principio della destinazione universale dei beni, e il settimo comandamento impone la giustizia e l'onestà nell'uso del denaro, che quando ci prende il cuore, come ci ricordano i Vangeli, abbiamo fatto gli esempi, e come San Paolo esplicitamente scrive nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, versetto 10, contagia il terribile tarlo dell'avarizia, che appunto l'Apostolo, nel luogo appena citato, non esita a definire la radice di tutti i mali. E quindi andiamo subito a vedere come si contravviene a questo comandamento, cominciando come sempre dai comportamenti moralmente più disdicevoli. Ora, io spero, ragazzi, che qualcuno vi abbia fatto fare un po' di buon catechismo. Vorrei aprire adesso un'altra parentesi, perché il catechismo dovrebbe essere fatto bene. A mio modestissimo avviso, troppo frettolosamente è stato messo in cantina, oppure nel dimenticatoio, l'aureo catechismo di San Pio X. Perché dico questo? Perché spesso poi anche ricapita che i ragazzi che arrivano alla cresima, per esempio nella nostra diocesi, per volontà del vescovo, l'iter catechistico è stato allungato di 6 anni, quindi arrivano a fare la cresima a 13 anni, a forza di cambiare testi, usare testi più moderni, testi più discorsivi, testi più esperienziali. Sapete che succede? Ecco. Sulla base questo del fatto che il catechismo non può essere nozionistico, non serve a niente impararsi la formuletta a memoria, bisogna fare un percorso di incontro e di conoscenza di nostro Signore Gesù Cristo. Lo sapete qual era la mia esperienza di parroco? Con questa, come dire, proposito e intenzione, che magari se stessa sarebbe anche buona. L'esito di questo processo è che arrivano alla cresima, e anche il nostro vescovo qualche tempo addietro lo fece presente ai sacerdoti, anche ai fedeli e ai catechisti di questa diocesi, e arriva alla cresima che non si ha nessun rapporto con Cristo, questo grande rapporto esistenziale, dinamico e fecondo con nostro Signore non c'è. E oltre a questo c'è proprio il nulla dal punto di vista dottrinale. Io vi parlo per esperienza, mi è capitato più di qualche volta, io faccio catechismo nell'ultimo anno di cresima, personalmente, faccio io in persona, non poche volte mi è capitato di sentir dire quante sono le persone della Santissima Trinità. Le persone della Santissima Trinità sono 4, Padre, Figlio, Spirito e Santo, ovviamente, no? Ecco, insomma, dall'imparare tutto il catechismo di San Pio X a memoria, a non sapere neanche che la persona della Santissima Trinità sono 3, penso che come sempre ci passi un po', ecco. Questa è una delle tante situazioni in cui nel nostro folle mondo si deve sempre passare, ecco, da un estremo all'altro, dimenticando un po' la sapienza dei nostri padri, secondo cui in medio stat virtus, ecco, quindi la virtù si trova sempre con un giusto mezzo. Io non l'avrei messo nel dimenticatoio così frettolosamente, perché certamente non è sufficiente per aver, dire di avere la fede, aver imparato magari a memoria o pappagallescamente delle formule, nessuno lo mette in dubbio. Innanzitutto uno, quando trasmette quelle formule, questo è compito del catechista, deve anche dargli un contenuto a quella forma, no? Quindi deve spiegarle. Tu spiega che significa che Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Tu spiega cosa significa che Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altra. C'hai del tempo, c'hai delle possibilità e fallo, no? Quindi qualche cosa sarebbe bene che rimanesse, perché altrimenti rimane il nulla totale. E questo nulla totale, un po' come le lacune che ci portiamo dietro per chi va a scuola, dalle scuole elementari, dalle scuole medie, non si colma più. Perché tu queste, il catechismo non trovi, difficilmente te lo imparerai a 40, 50 anni o a 30 anche. Con la conseguenza di precipitare, come oggi spesso accade, nel caos della confusione o del qualunquismo, del pressappochismo o del cristianesimo inteso come volemo sebbene, ecco, e tutto finisce lì. Dio buono, Dio misericordioso, cerchiamo la pace, aiutiamo i poveri, rispettiamo la libertà degli altri, cerchiamo di non essere troppo cattivi e fine del discorso. Per carità, parte delle cose che ho detto non sono false, ma è un po' poco. Questo per dirvi che, per introdurre il settimo comandamento, le due fattispecie più gravi di peccati contro il settimo comandamento, quelle a cui dobbiamo fare somma attenzione, sono anche due peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Il primo lo abbiamo incontrato parlando del quinto comandamento, l'omicidio volontario. E abbiamo a suo tempo ricordato che in questo omicidio volontario rientra. E rientra e come l'abominevole delitto dell'aborto. Dentro i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio c'è anche il peccato impuro contro natura, di cui abbiamo parlato ampiamente a proposito del sesto comandamento, un intervento che ha suscitato, io ho visto anche alcune reazioni online, c'era ovviamente da aspettarselo, qualche reazione un po' non troppo compiaciuta, perché oggi diventa un pochino fuori moda e non troppo politicamente corretto continuare a dire ciò che si deve dire, che è conforme alla rivelazione, almeno dal punto di vista oggettivo. Però ce ne sono altri due di peccati che gridano dentro al cospetto di Dio, che sono il defraudare gli operai, o comunque i salariati, della giusta mercede. Bene. Non pagare i dipendenti, detto in parole povere, oppure opprimere i poveri. Anche questi sono peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, gridano vendetta, cioè vuol dire sta attento, figlio mio, ti dice nostro Signore, eh? Tu sai quanto io sono buono, tu sai quanto io sono misericordioso, tu sai quanto io aspetto il peccatore, tutto quello che vuoi. Ma non ti azzardare a compiere una di queste cose, perché queste cose sono talmente gravi e talmente nefaste ai miei occhi che meritano di essere castigate severamente fin da questa vita. Questo vuol dire che gridano vendetta al cospetto di Dio. Cioè che sono talmente grandi che per quanto Dio voglia essere buono, paziente e misericordioso, dal momento che è anche giusto, non può esimersi dall'intervenire quando questi vengono commessi. Allora, a volte i ricchi, a quello che dicono, non sono proprio del tutto onesti. Ecco, ma io attraverso questa trasmissione vorrei esortare i ricchi a fare una bella cosa, o meglio, a non fare una cosa. E purtroppo mi risulta. Gli stipendi degli operai si pagano tutti e per tempo, non 5 mesi dopo. Se non hai i soldi per pagarli, te li fai prestare alla banca o te li fai prestare da qualcuno. I tuoi dipendenti non possono essere la tua banca. Non fai fare la banca a loro. Dici, non ti pago perché non c'ho i soldi. Perché un operaio, una persona che vive di stipendio e che tra l'altro si ammazza di lavoro, perché tutti i lavori da operaio sono lavori quando più, quando meno, faticosi, e ci campano quelle cose, non può certamente venirti a fare la banca gratuita, tra l'altro, a tasso di interesse zero, a te che sei il titolare, semplicemente perché non hai soldi per pagarlo. Figlio mio, tu nella tua attività io non voglio certamente farti una colpa, potrà essere la crisi, potranno essere le leggi vessatorie dello Stato, abbiamo tutte quante le circostanze attenuanti possibili, ma gli operai si devono pagare. Tutti, ebbene, uno. Due, c'è la problematica del lavoro a nero. Il lavoro a nero, sapete tutti quanti, che da un punto di vista della legge dello Stato è illecito. Allora, chi lavora a nero, vedete la legge morale, la legge civile, se fa il furbo, fa lavorare a nero, potrebbe scamparsi, perché nessuno potrebbe dimostrarlo, davanti allo Stato, dall'obbligo che c'ha di pagare, tra l'altro, il giusto salario. Il giusto salario, qui vi parlo ancora da ex studente di giurisprudenza, il giusto salario vuol dire, voi sapete ben, penso che sappiate ragazzi, che in tutte quante le varie aree del lavoro dipendente, dove operano tra l'altro i sindacati, non è che te lo inventi il salario, cioè il salario di un operaio metalmeccanico è stabilito dal contratto collettivo nazionale, che non è lasciato all'arbitrio del grande industriale. Se un operaio, adesso dico una sciocchezza, metalmeccanico di primo livello, devo prendere, non lo so, 1.400 euro, è 1.400 euro in Italia, per tutti. Chiaro? Facciamo un esempio impossibile, che un grande industriale ne assumesse qualcuno a nero. Allora, il fatto che stia a nero davanti a Dio non cambia minimamente la sua posizione. Ma se tu, oltre che passare se ti acchiappano i guai con la legge dello Stato, li passerai, non vuoi passare i guai con la legge di Dio, il lavoratore a nero tu devi trattarlo esattamente come quello in bianco. Quant'è lo stipendio? 1.400 euro netti? 1.400 euro netti. Quante sono le ferie retribuite? 30 giorni? 30 giorni. Quanti sono i permessi retribuiti? 5 in tutto l'anno? 5 permessi. Quanti sono i giorni? Cioè, non è che siccome sta a nero non può dimostrare, ah, le ferie chiaramente non si fanno, i permessi chiaramente non si fanno, se anziché lavorare 8 ore, lavori 8 ore e mezzo, chiudi un occhio. Ma questi problemi sono gravissimi i problemi morali. Se ti acchiappano quelli dello Stato, ti passano tanti guai per il lavoro a nero, ma molti di meno di quanti se ne passeranno davanti alla giustizia di Dio. E non principalmente, attenti, perché se tu assumi qualcuno a nero, evadi il fisco. Non è questo il motivo principale, perché davanti alla legge di Dio è più importante del fisco. Sono i diritti del povero e del poveraccio, che a volte, lo vedremo, possono essere addirittura tartassati, e non sempre giustamente, da un sistema fiscale iniquo. Quindi ricordate sempre che davanti a Dio il valore della persona è sempre prioritario, perché molti, anche tra i politici, si sciacquano la bocca con questi discorsi. A Dio non si sciacqua la bocca, Dio scende in campo. D'accordo? Quindi, gli operai si pagano tutti, il giusto, per tempo, non quando ti pare. Non è possibile che una persona che lavora ci abbia 2, 3, 4, 5 mesi di stipendio arretrato. Ehi! Sapete che ti vengono a dire, ma quello padre che gli devo fare? Ma ha detto che non ce l'ha? Non dico niente allo che mi dice così. Ma come non ce l'ha? E non ce la ritrova. Non è compito mio, cioè, preoccuparmi del fatto che non ce l'ha, è compito suo preoccuparsi del fatto che non ce l'ha. C'è un obbligo gravissimo di pagare. Bisogna pagare, bisogna pagare, bisogna pagare. Caro? Se un operaio, sto facendo esempi assurdi perché spero che nessuno faccia queste cose a nero, specialmente nelle grandi, aziende, sta male, ha i diritti ai giorni di malattia retribuiti, tali e quali di quelli di un lavoratore a bianco e non a nero. Attenzione che non la si fa franca su queste cose con la giustizia divina, eh? Non la si fa franca. Guai a chi si azzarda a toccare lo stipendio di un povero operaio e di una persona che con queste cose ci campa. D'accordo? Questo è il primo punto fondamentale. Ora dobbiamo andare a verificare un altro aspetto importante, ed è, come dire, la conferma attraverso la parola di Dio di questo principio. Allora, San Giacomo Apostolo ammonisce con toni severi: ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Primo passo biblico è assai significativo, quindi vi invito a considerare con attenzione il tenore di queste frasi. Vedete, grida vendetta al cospetto di Dio. Le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. E il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. Guai a noi. Quindi vi ho parlato di pagare bene per tempo. Attenzione, a proposito del pagare gli operai per tempo, non quando ti pare. Libro del Levitico. Il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Guai a chi abusa di questo e toglie di bocca il giusto salario a chi per sopravvivere ha bisogno dello stipendio frutto di onesto lavoro. E a questo proposito parliamo subito per analogia, perché il settimo comandamento dice di non rubare, impone anche di pagare i debiti, cioè, lasciando perdere il rapporto di lavoro dipendente e la condizione di un povero operaio, cioè di chi per vivere ha bisogno dello stipendio. Noi viviamo anche all'interno di un sistema commerciale ed economico dove c'è questo malcostume. Perdonatemi se lo devo dire, ma tanto lo dico, non importa niente. A volte i primi a farlo sono quelli che dovrebbero dare l'esempio e che poi si sbraitano dai pulpiti politici per dire che bisogna pagare le tasse, cioè quella pubblica amministrazione che non pagano i debiti. Io ho avuto persone familiari che hanno compiuto dei lavori per la pubblica amministrazione sono stati pagati 10 anni dopo. Vedete? 10 anni dopo. Questa è una cosa che non può essere. Tu mi hai rubato. Mi hai derubato. Derubato. Perché se io faccio un lavoro adesso, spendo dei soldi adesso per poter eseguire un lavoro, spendo del tempo adesso, sottraendo il tempo ad altri lavori che magari potrebbero, e tu non mi paghi, tra l'altro, come ben sapete, guai a te se ti azzardi a non fare la fattura, perché la logica di questo mondo, sulla fattura ci devi pagare l'IVA, chi la paga l'IVA? Io non so se la legge è cambiata, perché spero che almeno questa aberrazione mi pare di aver sentito dire che forse è cambiata, ma fino a qualche tempo fa, io faccio un lavoro per tizio, emetto fattura, pago subito l'IVA, alla fine del mese si paga l'IVA su tutte le fatture e infatti i soldi se io non l'ho preso li anticipo io. E alla fine dell'anno, nel 740, se c'è una fattura emessa, mi conta come reddito anche se non è stata effettivamente riscossa. Quindi io non lo so, su una fattura 10.000 euro, poniamo adesso l'IVA diventa 12.100, quindi allora io non incasso una lira. Devo pagare 2.100 euro di IVA più Spero che questo sia cambiato, ma a quanto ne so, fino a qualche tempo fa, che mi risulti, non ci metterei la stessa mano sul fuoco, ma era così, e non mi stupirei, ti fa pure reddito nel 7,40. E quindi su quei 10.000 euro incassati pagherai il 30, il 40, il 50% dell'aliquota a seconda del tipo di situazione che tu hai. Facciamo una piccola pausa per l'Ave Maria prima che ci si fa il sangue amaro, no? E poi riprendiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ragazzi, quindi il discorso del pagamento della giusta mercé agli operai va esteso ai beni e ai servizi. Perché è vero che alcune imprese falliscono, io ho sentito dei numeri, non mi ricordo, ma erano dei numeri, non so se 200 imprese al giorno, anche qui la memoria purtroppo, io qua oltre 40 anni comincia intanto a comparire l'Alzheimer, non vorrei dare una notizia sbagliata, ma mi sembra di aver sentito, e non tanto tempo fa, su Sky di G24, 200 imprese al giorno che chiudono, in Italia, tragedia. Ma è ovvio che se io sto in un'attività commerciale, se non c'è un flusso, se non mi arrivano i pagamenti, io per forza chiudo, perché gli operai devo pagare, e guai a me se non li pago. Le tasse, guai a te se uno non li paga, perché oggi non pagare le tasse, l'ho detto la volta scorsa, è il peccato assoluto, il primo peccato in assoluto, oppure, cioè, e non chiude poi. Cioè, il fatto che tu, e anche qui, come io non posso far fare la mia banca all'operaio, non ti pago perché non c'è soldi, c'è la banca che te li dà. Non posso neanche far fare la banca alla persona che io devo pagare. Che mi ha fatto dei lavori, che mi ha fatto dei servizi, no? Il pagamento va dato a livello tempestivo. Io vi posso dire, io non dormo la notte se una persona che ha fatto un lavoro per me, o se anche minimo, non viene pagata. Perché è una cosa che non deve esistere, è un'ingiustizia terrificante, brutta. Non ci deve stare una cosa di questo genere. Né in cielo né in terra. Non deve esserci. Quindi, ripeto, il salario del bracciante non deve restare presso la casa del padrone fino all'alba del giorno dopo, come dice il libro del Levitico, è evidente che, per quanto mi riguarda, nemmeno il corrispettivo di beni e di servizi può essere arbitrariamente trattenuto. Nel caso di lavori eseguiti, collaudati e consegnati. Perché anche se quello non ci campa con il pagamento tuo, il pagamento tuo, più il pagamento di Caglio, più il pagamento di Semprone, se non arriva, non lo portano al fallimento, e lo portano a un patatrac. Il fallimento, io adesso oggi non voglio fare una lezione di diritto, ma per chi l'ha studiato, è una tragedia, perché la morte civile della persona, una tragedia dagli effetti devastanti. E uno va protestato con un assegno, con una cambiale, perché non c'ha la possibilità di onorarlo, perché altri non l'hanno a loro volta pagato, è morto da un punto di vista commerciale. E non si fanno con leggerezza queste cose. Attenzione che non esiste soltanto io, ma mi inalbero, perché oggi sembra che esista soltanto il discorso del pagare le tasse. Io ho sentito storie nel nord Italia, che è meglio non dirle attraverso la radio, ma storie da parte di persone attendibili. Però è meglio non dirle queste via radio. Questi sono gravi peccati contro la giustizia, contro la virtù cardinale della giustizia. Ogni tanto si sente qualcuno dire, scherzando, per morire e per pagare c'è sempre tempo. No, non è così, eh. Per pagare non c'è tempo. pagare, tempo non c'è. L'altro peccato, l'ira non detta a cospetto di Dio, sperando di essere stato chiaro, è l'oppressione dei poveri, che non c'è soltanto defraudare l'operaio della giusta mercede. Defraudare significa o sottopagarlo e quindi sfruttarlo, o abbiamo visto con lo scusa che non sia in regola togliergli alcuni diritti sacrosanti che gli competono, o pagarlo tardi, o peggio ancora non pagarlo per niente. E questo va esteso, ripeto, nelle prestazioni di opere e di servizi. Allora, io trovo uno, guarda che da un punto di vista morale, ripeto, non c'è il tempo di fare un corso di morale qui, ma se tu pubblica amministrazione per pagarmi mi ci metti 10 anni, tu non c'hai il diritto, moralmente parlando, di esigere il pagamento immediato delle tasse. Questo è un discorso, diciamo, in linea di principio, poi non è che sto. Non è, cioè, tra il dire e il fare c'è, cioè, di mezzo, qualcuno diceva la mare, è un discorso di principio, di giustizia, teorico, ma vero però. E quindi prima di andare a dire blu blu blu blu blu blu, poi c'è l'oppressione dei poveri e, scusate, a mio modestissimo avviso, io non condivido affatto, questo ve lo dico franchissimamente, non solo che non lo condivido, ma sono proprio veramente allucinato circa alcune politiche che stanno facendo, specialmente in Italia, in questi ultimi tempi, che ricadono massacrandole sue famiglie povere. Allora, ragazzi, non si può stare sempre a chiedere le tasse, non si può stare sempre a chiedere tasse, non si può aggiungere la pressione fiscale oltre il 50%, non è possibile, non è possibile. Non è possibile, adesso fortuna che l'hanno tolta. Ma poi, cioè, ma io dico, ma come hanno fatto a introdurla? Io non voglio fare politica, sto parlando di giustizia. Cioè, voi immaginate un poveraccio che campa di stipendio, lui e la moglie, che ha i figli, fa un mutuo, magari ha fatto un mutuo trentennale per assicurarsi almeno un tetto proprio, d'accordo? Che quando morirà, cioè, che anziché pagare l'affitto a un estraneo e poi lo trovasse con pugno di mosche in mano, si comprò la casa propria. Cosa tirano fuori? La tassa sulla prima casa. Io ho comprato una casa con tutti i sacrifici di questo mondo, pagando al momento in cui l'ho acquistata le tasse, perché si pagano, c'è l'imposta del registro, non so che cosa, se non mi ricordo bene, quindi ho già pagato. Per il fatto di avere una casa mia, io devo pagare ogni anno l'affitto allo Stato. Ma perché? O al Comune, ma perché? Perché? A un poveraccio, cioè, ma sono 200-250 euro, non lo so quanti è, ma fossero pure 30 euro, ma perché? Perché? Perché? I politici devono inventare qualcosa, perché se siamo imbarcati in un mare di guai, adesso non possono, per risolvere il mare di guai, spremere, spremere, spremere, spremere, spremere, spremere, spremere, causando tra l'altro dei danni incalcolabili all'economia. Cioè, voi sapete, un parroco c'ha il polso delle singole persone. Io vi posso dire che ho parlato con più di qualche imprenditore che lavora nell'ambito dell'editoria, che ha costruito caseggiati interi, e non ha venduto gli appartamenti, perché mo adesso speriamo che adesso si sia una ripresa, ma l'anno scorso, non mi ricordo se il 14 o il 20% in meno c'è stato chiaramente nella vendita degli immobili, perché io sono matto, io devo andare a fare un mutuo trentennale, fare un sacrificio enorme per prendere una casa di proprietà, dopodiché oltre alla rata del mutuo devo pagare l'affitto allo Stato ogni anno, a quel punto non pago più. I politici che hanno fatto queste cose, perdonate, devono andarsi a confessare, perché questa è oppressione dei poveri. E non è che si tratta di essere comunisti o cose di questo genere, i poveri non vanno oppressi. Uno Stato ha il diritto di esigere una certa contribuzione proporzionale dai cittadini, ma non mi puoi tartassare, non lo puoi fare questo. Questo bisogna dire, certamente non è che uno può andare a fare le cose, le rivolte o andare a incitare all'evasione o cose di questo genere, ma almeno se si possono dire queste cose qui, no? A prescindere, non mi importa niente a me il colore politico, bianco, rosso, nero, verde, non mi interessa. Non mi interessa. No? Cioè, non è possibile, noi parliamo tra sacerdoti, no? Ma voi immaginate, cioè io adesso pongo un problema, no? Cioè, ne abbiamo parlato, io sono stato in difficoltà in alcuni momenti. Ti viene un poveretto, un piccolo commerciante, d'accordo? Che campa con una piccola attività commerciale, non lo so, un baretto, un alimentare, una cosa di questo genere. E ti fa questo discorso. Padre, io ho famiglia, pago il mutuo e ho 4 figli, lavoro solo io, mia moglie non lavora, ho sto baretto. Se io scrivo tutti gli scontrini fino all'ultimo centesimo, succedono due cose. Uno, che chiudo. Due, che io non ho i soldi da mangiare, per far mangiare la famiglia. Allora, vorrà dire che non posso fare la comunione a vita, perché io sono un evasore fiscale, quindi, e non mi posso manco confessare, perché non mi posso pentire di questa cosa. Perché o faccio così, oppure io vado a zampe all'aria, perdonatemi il termine, e la mia famiglia non mangia. Una, tu dici, esagerazioni, non è vero, però tu ne senti una, poi uno, come dire, cioè, riunioni tra preti, oh ma sai che mi è successo questo episodio in forma anonima, oh ma mi è successo pure a me, mi è successo pure a me, è 2, 3, 4, 5, 50, ma qui c'è sta qualcosa che non va. Domando ai radioascoltatori, che cosa gli rispondereste voi? No, o paghi, o fai tutti gli scontrini. Chiudi il negozio, non devi mangiare la famiglia, oppure non ti fai la comunione per tutta la vita, non ti do la soluzione. Rispondereste così? Io mi sono trovato in difficoltà quando ero giovane prete, perché ti cominciano a prendere, allora, che faccia questo non glielo puoi dire, secondo quello che uno pensava. Ma non puoi neanche dirgli che faccia morire di fame la famiglia, o che ma che domani questo qua se fallisce. Che facciamo? C'è un problema, se no? Problema. È vero che Gesù nel Vangelo dà una norma di principio, rendete a Cesare quello che di Cesare, ma è Dio quello che di Dio. Però dobbiamo pensare che quando Gesù parlava, dice è lecito che paghiamo il tributo a Cesare, non è che si pagavano le tasse come oggi, perché il tributo era una tassa, una tanto, e poi a carattere fondamentalmente vessatorio. Il tributo erano dei soldi che l'imperatore ti faceva pagare, non in forma esorbitante, poi come si chiamano i farisei, i pubblicani, che facevano questo lavoro, ci facevano la cresta, quindi tu devi pagare, non lo so, dico un numero a caso, 5-7 etere, vi devono 10 perché 5 si mettevano in tasca loro, quindi vedete che Tangentopoli è peccato molto antico, ma comunque non stavamo ai livelli di oggi, cioè a percentuali 20, 30, 40, 50%. Io ho conosciuto una persona i cui figli lavorano in Inghilterra, relata all'estero, non ho verificato questa notizia, ma se questa notizia fosse vera, ho detto, sai lì come funziona per Leonardo? Tu c'hai il tuo lavoro, a un certo punto dell'anno ti presenti all'ufficio fiscale, dichiari quello che hai incassato, ci sono delle tabelle. Se stai entro una certa cifra paghi il 23%, se stai oltre una certa cifra paghi il 33%. Allora, perfetto. Allora lì si paga le tasse fino all'ultimo centesimo. Si deve pagare sotto tutti i punti di vista, perché non ti troverai in una situazione limite come questa, che dopo ti manda al manicomio, ti manda, perché dice o trasgredisco quell'occhio o muoio di fame. Io penso che un cittadino non può ridursi così. Il coraggio non si può ridurre così. Non si può ridurre così. Quindi auspico che la Chiesa c'è una dottrina sociale, ve l'ho già detto. La dottrina sociale dice le tasse si pagano e come? allo Stato. Allo Stato nell'esigerle deve osservare i criteri della giustizia e dell'equità e non può esagerare, perché non pochi moralisti, scrivono che uno Stato non può chiedermi di lavorare a mezzi con lui, non può. D'accordo? Sto parlando di moralisti, quindi di persone che hanno studiato la teologia morale. È troppo. Quindi io posso anche, per il mio alto senso civico, subire un'ingiustizia di questo genere e pagare fino all'ultimo centesimo, se non sto in condizioni limite, ma questa comunque è un'ingiustizia, ed è compito di chi sta al governo rimuoverla, e ti inventi qualcosa. Punto. Scusatemi, ma su questo argomento, avendo conosciuto tante situazioni borderline, mi accaloro che non è possibile una cosa di questo genere, insomma, a mio modestissimo avviso. Ora, l'oppressione dei poveri però si realizza anche in tante situazioni in cui si creano delle, e su questo vi invito anche a leggere della splendida enciclica difficile, ecco, si vede che ci sono degli economisti che hanno scritto che hanno collaborato con Papa Benedetto XVI, pare che fosse la Spesaldi, quella dove si trattavano tanti temi economici, passata un po' troppo in sordina, dove si stava spiegando, cioè, come dire, i peccati raffinati che si fanno, perché i peccati adesso oggi viviamo in un mondo un pochino, pensate quanti peccati che si fanno per esempio ogni giorno, poi lo vedremo nell'ottavo comandamento, su Facebook, perché quando uno va nel mondo mediatico, su internet, comincia, spara, parla, offende, calunnia, perché sta dietro una tastiera, sta dietro uno schermo, non c'è il contatto, e si pensa invece di essere autorizzato a dire chissà che cosa. Oh! Io ve lo dico perché molti degli ascoltatori sono miei amici Facebook, sicuramente, perché me lo scrivono, sanno benissimo che per abitare dalle parti del mio profilo ci sono alcune regole. Quando una persona mi chiede l'amicizia, io la metto davanti. Non mi far diventare la mia bacheca un ricettacolo di polemiche, insulti, un teatro delle forme più basse e di cattivo gusto di alcuni talk show, e dico che è meglio non fare nomi, che si vedono adesso in giro, e queste condizioni non la puoi frequentare, e questa è la bacheca di un prete. Ma se anche non fosse, io penso che tutti dovrebbero fare così. Certamente Facebook è uno spazio pubblico in cui vigono comunque i 10 comandamenti e le regole del vivere civile. Porta. Chiusa parentesi. Quindi, riguardo quest'altro peccato, ci sono svariate forme oggi in cui chi è nell'abbondanza, e non soltanto nell'abbondanza nel senso che c'è i soldi sotto il mattone, cioè chi è in situazioni di potere, di egemonia economica, anche a livello di grandi gruppi e di grandi concentrazioni, può in essere comportamenti anche ad angariare, a sfruttare o a opprimere chi è privo del necessario, oppure abusa e approfitta della condizione di bisogno e indigenza del popolo. Questo vale anche nelle formulazioni, per esempio, dei prezzi, no? Dei beni di consumo. Certamente anche in questo caso l'attuale legislazione giuslavoristica, che è garantista e che è positiva, e le tutele garantite ai lavoratori salariati, che stanno però esattamente in regola, pongono un argine non indifferente al dilagare dell'iniquità, ma si pensi per esempio al caos generato subito dopo la rivoluzione industriale nel 1800, caos con situazioni di sfruttamenti e di ingiustizie talmente grandi che hanno fornito l'humus socio-culturale all'ideologia comunista, che ha fatto un sacco di danni poi. Sapete che l'ideologia comunista in senso stretto, io questo lo dico, l'ideologia comunista in senso stretto non può essere appoggiata da un cattolico. Comunismo in senso stretto, comunismo estremistico, gli estremi non possono essere neanche dall'altra parte. Gli estremi non possono essere vissuti serenamente da un cattolico, perché comportano per forme e aspetti diversi delle forme di delle ideologie, delle forme di pensare e quindi conseguenze di agire che sono assolutamente in contrasto con la liberazione. Quindi anche se adesso molti di questi abusi sono arginati dalla legislazione garantista, rimangono anche in questo campo le cosiddette aree del sommerso. E adesso, cioè, nel nord Italia i lavori, su questo argomento è inevitabile che si toccano aspetti in un certo senso marginalmente di rilevanza politica. È vero che c'è la disoccupazione, ma molti lavori, diciamo così, meno edificanti, più pesanti, più bassi, a quello che raccontano alcune esperienze, specialmente delle aree industrializzate del nord Italia, gli italiani non la vogliono fare. E quindi le vanno a fare i nostri fratelli non italiani. Sperando non vengano mai a ingenerarsi situazioni di abuso oppressivo, tipo l'approfittarsi della situazione di indigenza o di bisogno di qualcuno per costringerlo a prestazioni sottopagate, oppure somministrando beni e servizi a costi che non può permettersi. E anche qui i legislatori devono stare attenti, perché non è possibile in uno Stato civile, da cui oggi si parla sempre, lo Stato civile o Stato civile, che ci sia gente, io faccio il sacerdote, mio cognato fa il medico, quindi sono, diciamo così, due professioni che ti fanno stare a contatto con un sacco di gente. Io non posso sentire da una persona che ha il patema al 20 del mese. E anche se, ma abbiamo visto a proposito del sesto comandamento, aprirsi alla vita è un problema di fede, uno si dovrebbe aprire alla vita anche quando non ci sono delle condizioni ottimali, e voi però capite che se una persona non sta nelle condizioni ottimali, ci vuole tanta fede per aprirsi alla vita. Io non dico che non se lo debba fare o che lo voglio giustificare, però io dico, vogliamo fare delle politiche decenti. Una persona campi in una maniera dignitosa, ma col patema al 20 del mese, portare la disperazione. Io sono sicuro che è stato qualche tempo fa, l'anno scorso, due anni fa, io ho detto ai parrocchiani, venite a guardare il bilancio della parrocchia e quanti soldi abbiamo dovuto dare per sopperire a delle situazioni di disperazione assoluta. Sapete che non è un parroco interviene al primo problema che trovo, io almeno non lo faccio con i soldi della parrocchia. I soldi della parrocchia li devo amministrare, devo stare attento, quindi non intervengo se non c'è una situazione grave e urgente, ma ce ne sono state tante gravi e urgenti. E io mi chiedo, dico, ma situazioni così grave e così urgenti, non dovrebbero intervenire le istituzioni, o forse che dopo la Chiesa, quando si parla di Caritas, la Chiesa è sempre da buttare via. Quando si parla di Caritas, però la Chiesa va bene. Perché a volte fa delle cose che dovrebbe fare lo Stato. E che lo Stato non sa, non può o non vuole fare. Almeno evitiamo di opprimere la povera gente. I poveri, oggi va tanto di moda sul discorso dei poveri, che a volte a me non mi piace anche come viene ideologizzato e strumentalizzato, perché sembra che ci sia altro problema nel mondo che i cosiddetti poveri. Problema molto grande. è una dimensione fondamentale della vita della Chiesa. E bisogna alzare la voce, come ho cercato di fare, anche contro le forme raffinate e tranquille di oppressione dei poveri. I poveri, l'uni dall'essere oppressi, devono essere oggetto di attenzione particolare, non solo da parte della Chiesa. E tuttavia, sempre, sull'esempio del suo Signore, ha avuto per essi una cura speciale e un occhio di profondo riguardo. Ma anche da parte delle autorità civili e di tutti coloro che, per aver avuto in sorte una maggiore disponibilità di beni materiali, non per questo possono abusarne, ma anzi sono tenuti a supplire con la loro abbondanza all'altrui indigenza. Quindi, ragazzi, ripeto, senza con questo andare a creare delle situazioni estreme. Queste tematiche, che accennavo la volta scorsa, forse è meglio farlo dato che siamo in conclusione, sono state nel secolo scorso estremizzate, ideologizzate e unilateralizzate da alcune correnti teologiche molto forti, specialmente in America Latina, la cosiddetta teologia della liberazione, che ha teorizzato, come dire, una lettura cristiana molto improbabile, per non dire impossibile, erronea ed eretica, fondata su alcuni passaggi della scrittura, ma sono alcuni. Per esempio, il profeta Amos, soprattutto nei capitoli 4 e 8, è molto severo con chi opprime i poveri, molto. Due capitoli della Bibbia, non sono tutta la Bibbia, non si parla solo di quello in tutta la Bibbia, è un problema serio, è un problema grave, ma non ci si può fare un'ideologia, cioè a partire da questo problema io elaboro un sistema che fa di questo problema il problema dei problemi e la chiave di lettura di tutti i problemi dell'uomo. E quindi la soluzione di questo problema, anche in maniera non proprio ortodossa, perché qualcuno degli esponenti di questa teologia parlava anche di, come dire, di ricorso alle armi, quindi di ribellione dinanzi all'ingiustizia, cosa che io ho denunciato durante questa trasmissione, alcune credo ingiustizie. Le ingiustizie si denunciano perché siano rivolte, cioè tra denunciare l'ingiustizia di ribellati, le tasse sono troppe, rivolta fiscale, non le paghiamo più. Io non ho assolutamente detto questo e non lo dico, e non è questo il modo evangelico e cristiano di approcciarsi ai problemi. Quindi il problema della povertà e dell'oppressione e dello sfruttamento della povertà è un problema grave, serio e reale. I peccati che si fanno gridano vendetta al cospetto di Dio, abbiamo detto. Quindi, ma non è questa l'ideologia assoluta, e per risolvere questo problema non si possono usare mezzi intrinsecamente cattivi. E a fianco a questo altro problema, nella vita della Chiesa, ce ne sono anche altri. Soprattutto la cura suprema della Chiesa, questo non dimentichiamolo mai, è la salvezza delle anime. Non l'azzeramento di tutte le forme di oppressione e di povertà che, come abbiamo visto già nell'introduzione a queste nostre conversazioni, non sarà possibile in questo mondo. Vi ho detto, i poveri li avrete sempre con voi. Riconoscere Gesù in loro, servirli, e guai a noi se li angariamo e li sfruttiamo, è sacrosanta osservanza dei dettami evangelici. Pretendere di eliminare la povertà, oppure ipertrofizzare questo aspetto come se l'unico compito della Chiesa fosse di servire i poveri, o rivendicare anche con mezzi non sempre evangelicamente corretti i loro diritti, non è vero. Quindi, respinte fermamente tali esacerbazioni, potremmo dire, unilateralistiche e al limite dell'eterodossia, quindi fuori dell'ortodossia della Chiesa, resta comunque il fatto che sì, questi puntini sugli i, che i poveri sono senz'altro nel cuore di Dio e chi li opprime, li vessa, li sfrutta, li maltratta o li paga, vorrà vedersela e anche su questa terra cadono e gridano vendetta al cospetto di Dio con i rigori della divina giustizia. Dio piacendo, ci vedremo ragazzi la settimana prossima. Io vi saluto tutti, Ave Maria.